24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Gli obiettivi fondamentali che il governo si pone con questa delega sono essenzialmente questi. Il primo, quello fondamentale, semplificare, rendere certe le norme, le procedure, i contratti, semplificare i controlli. Invece di stare con i lavoratori ha scelto di stare con le imprese, con la Confindustria, ha scelto di stare con quelli che portano i soldi all'estero. C'è poi un secondo punto, estendere i diritti nel rapporto di lavoro attraverso l'introduzione del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti e abolendo e riformando i contratti che precarizzano. Bisogna decidere che si aggrediscono alcuni poteri forti e anche, come dire, ricchi di questo paese per mettere delle risorse a disposizione di un processo di crescita. Per il governo italiano è assolutamente centrale e prioritaria la delega lavoro in tutta la sua portata, non solo l'articolo 18, che ne rappresenta certo una parte significativa, ma che nelle nostre aspettative non è, come invece potrebbe apparire dalla discussione di queste settimane, una sorta di alfa omega della nostra riflessione. Se ci incontra, ci ha incontrato, vuol dire che è cosa buona, perché voltarci qualcosa, dice, allora non va bene perché voltarci qualcosa, no, se voltarci qualcosa va bene. Si tratta a questo punto nuovamente di una scatola vuota o peggio di un imbroglio. Ci mobilitiamo oggi, ci mobilitiamo la prossima settimana e il 25 siamo a Roma. La relazione tra lavoro e impresa non può più essere interpretata solo dal binomio novecentesco conflitto e contratto. È in discussione molto di più, perché un'idea di questa natura sul piano legislativo, se la portano avanti, vuol dire cancellare la libertà di chi lavora in azienda. Senatore Santangelo, come abbiamo fatto a finire in questa situazione? Com'è potuto accadere che un silenzio paese... silenzio possono contestare, possono far polemica, ma la verità vera è che questo paese lo cambiamo. Abbiamo bisogno di corresponsabilità. Era la bella copertina di Francesca Nardo Marino per il programma di Paola Saluzzi su Sky. Mario, volevo chiederti, insomma, alla fine tutto bene, più voti del previsto? Dunque, politicamente 2-0 per Renzi, palla al centro. Nel merito c'è una cosa divertente, cioè che in realtà il Parlamento ha votato lo stenografato di Poletti, non la delega, perché nella delega di fatto non c'è niente, che è una tattica, nel senso che Renzi si è, nel documento ufficiale, quello che conta quando vai a fare poi i provvedimenti, si è rimasti sul generico, giustamente. Si è preso tutto, no? Però, per convincere poi il Parlamento, Poletti ha fatto queste dichiarazioni, il che uno direbbe, ma che cosa hanno fatto? Con un altro effetto meraviglioso, che Renzi si vende in Europa le dichiarazioni di Poletti, in patria con i sindacati per trattare gli dice, ma lo vedete che la delega non stabilisce ancora niente, quindi è interessante. È una nuova come tattica, caso. Pietrangelo, infatti, maxi emendamento infatti, che non emenda nulla. Infatti Renzi cosa ha detto? Che in Europa gli fanno i complimenti e in Italia invece deve vedersela con la minoranza. Con la sceneggiata. Con la sceneggiata. Però ho trovato una perla deliziosa. In un articolo di Fabrizio Roncone oggi sul Corriere della Sera, un colloquio con Giulio Tremonti che dice: i vecchi talponi ministeriali un tempo avrebbero detto che quella che stiamo votando è solo una cartella. Vuota? Domanda Roncone, risposta. Sa quando si rompe la linearità del diritto romano? Si rompe a Bisanzio, quando si inventa il quasi e nasce il quasi delitto, il quasi contratto e dunque concluderei il quasi emendamento. Detto questo, però, può essere anche interpretato come l'inizio della democrazia governante dei tempi moderni, che supera il bicchiere. Insomma, è la riforma istituzionale nei fatti. Ma sì, ma dai, noi no, già abbiamo un sistema di fatto semipresidenziale con il Quirinale che controlla atti, ha un impulso di indirizzo e così via. Quindi per me niente di strano. È la costituzione materiale che vince, è più forte, che è più forte di quella, cioè, formale, è sempre stato così. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS, naturalmente in attesa che questa delega diventi operativa. Noi facciamo una piccola riflessione sul tema dell'occupazione, ma dell'occupazione femminile, perché Renzi ne ha parlato nel suo discorso al Senato. Oggi qual è la situazione? La situazione è una situazione difficile, perché siamo al 46% di occupazione femminile. Per avere un parametro, la Svezia è al 71%, la Germania al 68%, la Francia al 60%, quindi l'Italia con il suo 46% al penultimo posto dell'Unione Europea, sopra solo la Germania, che alla Grecia, scusate, che è al 40%. Ecco, uno che ha affrontato questo problema tentando di dargli una soluzione, partendo proprio dall'economia delle donne, dalle women, com'è che si chiamano? Womenomics. Ecco, l'economia delle donne, diciamo, è stato il premier giapponese Abe, il tuo amico, che ha fatto? Niente, sta varando una serie di provvedimenti per aumentare il tasso di partecipazione femminile al lavoro. Tieni presente che il lavoro maschile in Giappone, il tasso di partecipazione è l'80%, quello femminile è il 62%. Se lui riuscisse a colmare questo gap che c'è tra maschi e femmine, avrebbe, secondo le proiezioni, un salto del PIL di 12%. Perché? È perché le donne producono ricchezza. Questo è il punto fondamentale. Se no, questa ricetta di Shinzo Abe è applicabile al mezzogiorno, dove ci sono alti tassi di disoccupazione e bassi tassi di partecipazione al lavoro da parte delle donne. Una domanda cretina, Mario, me la permetti, ma se non c'è lavoro, come si fa ad impiegare donne o uomini? Questo è il dilemma nel quale si dibatte Renzi, cioè aumentare la domanda interna, perché l'export... Quello è il problema dell'economia in generale, certo, se non si produce più non c'è lavoro né per uomini, chiaro, né per donne. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, SMS, Siria. Una notte d'inferno in quasi tutta la Turchia, la statica guerra di confine vicino a Kobani si sposta e riaccende nelle vie e nelle piazze turche. I raid alleati prendono di mira i combattenti dell'ISIS che avanzano nelle strade. Potrebbero essere stati sventati piani ancora in fase iniziale per il primo attacco dell'ISIS nel Regno Unito. Il premier turco Erdogan aveva addirittura invitato la coalizione internazionale e in primo luogo gli Stati Uniti a compiere un passo decisivo. Mentre un'anonima fonte dell'amministrazione americana dice al New York Times: ora basta, i turchi fanno i furbi mentre c'è un massacro in corso a un chilometro dalla loro frontiera, non è il modo di comportarsi di un alleato della NATO. Ali Reza Yalali, analista di questioni geopolitiche del Medio Oriente e dell'Iraq, qual è il futuro di Kobané? Kobané è una situazione molto difficile, qualsiasi cosa succeda, sinceramente penso che la città avrà dei problemi importanti, perché sia che i jihadisti la conquistano in toto, sia che i curdi possano resistere, comunque la situazione è talmente caotica che non vedo un futuro drammatico. Sì. Esatto. Senta, i turchi sono lì, a un chilometro, ma non fanno nulla, c'è una complicità? Beh, tutte le fonti dimostrano che l'ISIS in realtà è stato foraggiato lungo questi anni in funzione antisiriana proprio dalla Turchia. La presa di Kobane da parte dell'ISIS sarebbe il casus belli per la Turchia per intervenire in Siria. E quindi sarà in qualche modo, potrebbe essere solo una merce di scambio tra Turchia e Stati Uniti per indebolire Assad, se capisco bene. Assolutamente, assolutamente sì, anche perché i turchi hanno già detto che interverranno in Siria contro l'ISIS solo ed esclusivamente se vi sarà una garanzia da parte di Washington di poi andare direttamente a spodestare Assad. Lei ha parlato di fonti, ma quali sono le fonti che danno questa sicurezza di questa... Ma sono sostanzialmente, addirittura partiamo da questo presupposto che mi sembra la fonte sia autorevole in assoluto, Joe Biden qualche giorno fa in una dichiarazione si è lasciato scappare che la situazione attuale in Medio Oriente con il fondamentalismo dell'ISIS che imperversa in realtà è stato foraggiato da alcuni alleati arabi e turchi appunto degli Stati Uniti. Quindi proprio Joe Biden. Beh, certo, una fonte più fonte di così. Senta, esatto. Ma la jihad in Europa è un fatto reale da temere? La jihad in Europa è un fatto molto problematico per via del fatto che appunto innanzitutto i jihadisti oggi sono in loco in Medio Oriente, ma un domani, una volta che le guerre laggiù finiscano, può darsi tranquillamente che tornino in Europa, come è già successo in passato, e visto anche i numeri per l'Italia un po' inferiori, ma per paesi come Gran Bretagna ed altri molto molto più alti. Quindi lì c'è molto rischio, ci sono molti rischi di attentati, sì, oppure peggio, certo. Senta, ma in questa vicenda che partita sta giocando l'Iran? L'Iran difende le sue posizioni in Medio Oriente, posizioni che ha acquisito nell'ultimo decennio sostanzialmente, ovvero quello di creare un'area geopolitica coesa che va dal Mediterraneo al Golfo Persico e che comprende il governo siriano e il governo iracheno soprattutto. Quindi questa in realtà è una partita geopolitica tra il neo-ottomanesimo turco e quello che possiamo definire il neo-safavidismo iraniano. Senta, un'ultima domanda, l'ISIS incassa $1 milioni al giorno, così si dice, ma da dove arrivano? Allora, le fonti dell'ISIS sono principalmente la vendita del petrolio, dei pozzi che controllano a cavallo appunto, principalmente in Siria, ma comunque a cavallo in Siria e Iraq, ma in realtà le fonti economiche dell'ISIS principalmente sono gli Emirati, i Regni della penisola araba, da lì arrivano principalmente i soldi dell'ISIS. Ecco, un'ultimissima cosa, ma le misure antiterrorismo prese in Italia e in Europa, secondo lei sono sufficienti o no? Il problema è molto complesso, innanzitutto perché i jihadisti che partono organizzati. Partendo organizzati è difficile. È difficile un controllo, ma dobbiamo anche, secondo me, tenere in considerazione che in questi anni il jihadismo è stato sovvenzionato in parte per far cadere Assad in Siria, quindi i servizi in qualche modo hanno avuto un loro ruolo in tutto ciò. 800 24 00 24, numero verde, l'SMS 349 238 6666. Abbiamo con noi il professor Sergio Romano. Ecco, professore, la situazione in Siria, lo sentiamo, è drammatica. L'ISIS perseguita, uccide cristiani e curdi con una scarsissima reazione attiva, diciamo così, dell'Occidente. Perché? Ma non credo che sia del tutto insignificante la reazione dell'Occidente, degli Stati Uniti. Dopotutto, per la seconda volta nel corso di 25 anni esiste una coalizione fra paesi occidentali, fra l'Europa, gli Stati Uniti e alcuni paesi arabi, e questo è uno straordinario progresso rispetto a circostanze in cui si è avuta l'impressione che il mondo occidentale fosse in lotta con l'intero Islam, con l'intero mondo arabo musulmano. Dice, c'è una distinzione in questo caso. Ecco. È una distinzione importante. Ecco, il presidente della Turchia, però, Erdogan, dice addirittura che Kobané è una città persa. Lui è immobile malgrado i soldati schierati a un chilometro dalla città. Ma in qualche modo è complice, come è stato detto? Ma è complice, forse secondo alcuni addirittura per un certo periodo ha fornito un aiuto obiettivo all'ISIS. Io credo che il suo problema sia quello di essere ancorato a una scelta fatta nel momento in cui è cominciata la rivolta siriana. Ha deciso che il regime di Assad va abbattuto, teme che questa concentrazione di sforzi contro l'ISIS distragga l'Occidente e gli Stati Uniti da quello che lui ritiene essere l'obiettivo primario, ecco, vale sì. A dire la caduta del regime di Assad, e tenga poi presente che se lui intervenisse militarmente, cerco di ragionare come lui, tanto certo, per intenderci, beh, lui aiuterebbe i curdi, in certo. questa particolare circostanza, e non credo che abbia voglia di aiutare. E quindi lui, per la doppia ragione che ha detto, vuole in qualche modo un pretesto per intervenire in Siria e indebolire il presidente siriano? Vuole essere certo che vengano presi contemporaneamente dei provvedimenti che mettano Bashar al-Assad in grosse difficoltà. Senta, Putin e il Papa hanno bloccato i bombardamenti di Obama contro Assad, che prima era il nemico numero uno. Il Wall Street Journal oggi ha scritto che quello è stato l'errore del Presidente degli Stati Uniti. Secondo lei è vero? Ma non passa giorno senza che il Wall Street Journal, per questo o per quell'altro, addirittura la riforma sanitaria, critichi Obama. È diventato lo sport preferito di una parte della stampa degli Stati Uniti ed è un elemento interessante della crisi. Obama è sempre di più un presidente detestato da una parte importante della società politica americana. Devo dire poi che quella decisione che Obama prese quando non procedette al bombardamento della Siria, era tutto sommato inevitabile. Vede, ogni uomo politico e ogni uomo di Stato rifà inevitabilmente la guerra precedente e vorrebbe evitare gli errori della guerra precedente. Per Obama in quel momento il problema era di non rifare la Libia. Certo. Vale a dire una situazione in cui chiaramente si era deciso di bombardare e i risultati sono quelli che sappiamo. Davvero vogliamo che in Siria accada lo stesso su scala ancora maggiore? Senta, ma in qualche modo però la politica estera di Obama si può dire che, al di là di quello che lei ha detto, che è chiarissimo, è dominata dall'incertezza? Più che dall'incertezza, da un suo temperamento amletico, direi. È un professore universitario, stranamente, molto più che un uomo politico. Vale a dire, fa una cosa che in generale i politici non fanno e che qualche volta persino giova a loro. Pensa troppo. Mm. Si chiede che cosa accadrà, che cosa potrebbe accadere, e poi ha degli obiettivi. Troppo problematico. Reali. Problematico, con un obiettivo del resto che però rimane molto forte in lui, che è quello di sganciare gli Stati Uniti da tutti gli impegni catastrofici che sono stati presi all'epoca della presidenza Bush. Di fatto però sembra semplice, ma non è semplice per no, niente. No, il declino degli imperi è più complicato della loro creazione. Senta, lei ha detto una cosa che mi ha colpito molto, ha detto che Erdogan in qualche modo ha aiutato l'ISIS all'origine. Qual è l'origine dell'ISIS? Ma anzitutto l'origine dell'ISIS è la progressiva radicalizzazione dei gruppi islamisti, a partire dal momento in cui gli stati arabi del Nord Africa sono crollati con le rivolte. La Fratellanza è andata al potere in Egitto, ma è accaduto della Fratellanza quello che accade sempre di tutti i regimi, di tutti i movimenti autoritari, fortemente ideologici, vale a dire c'è sempre il giacobino che è, certo, che è più giacobino degli altri. Ecco, però è un fenomeno che dalla rivoluzione francese si ripete continuamente. Ecco, professor Romano, ancora una cosa, l'Occidente comunque assiste, sembra definitivamente senza anima, a questo genocidio, senza quasi reagire, anche se lei dice in realtà un po' reagisce. Ma se l'avesse sarei preoccupato. Questo è un messaggio per lo spregevole David Cameron. Se tu fossi un vero uomo, manderesti i tuoi soldati a combattere faccia a faccia, ma sai che sono dei codardi. State combattendo contro persone che amano la morte più di quanto voi amiate la vita. Mandate tutti i vostri soldati, mandate qui le vostre risorse e noi le rimanderemo indietro una ad una nelle bare. Generale Carlo Jean, esperto in strategie militari. Ecco, da lei vorrei sapere, ma se mai vista una guerra combattuta e vinta solo con i bombardamenti come pensano di fare gli americani, senza la fanteria? No, quello lì non esiste, soprattutto una guerra di tipo asimmetrico in cui le fanterie dell'ISIS, sicuramente colpite dagli attacchi aerei, a poco si rifugieranno nelle città e le città non verranno bombardate perché si teme di avere parecchie vittime. E allora è una guerra non guerra, cioè questa idea della complicità, di un quasi un far finta viene in mente veramente. Sì, a mio avviso però gli Stati Uniti hanno scommesso sul fatto che le fanterie fossero fornite in parte dai cosiddetti insorti moderati, in parte soprattutto dalla Turchia. A mio avviso attualmente si trovano in un impasse e dovranno decidere che cosa fare in seguito. La Turchia non sembra avere tutta questa intenzione, sta lì ferma a un chilometro. Vabbè, c'è da dire una cosa, che molti dei guerriglieri del PKK curdo combattono per la difesa di Kobane e di conseguenza la Turchia sta a guardare che cosa succede. Senta. Poi la Turchia ha messo delle condizionalità che suonano un pochettino strane, fanno ricordare quello che era capitato nei trattati di Sèvres, Losanna, per la sistemazione, per la divisione delle spoglie dell'impero ottomano tra l'Inghilterra e la Francia. Insomma, sperano nella caduta di Assad. Prego? No, sperano nella caduta vuole di Assad. D'Assad in quanto pensa che un governo sunnita a predominanza fratellanza musulmana, quindi molto legata alla KP turco, possa aumentare l'influenza della Turchia in Siria. Ecco, ma generale, solo un mese scorso Kerry, il segretario di Stato americano, a Jeddah ha stretto un'alleanza con 11 paesi arabi pronti a fare la loro parte, diciamo, in questa coalizione contro lo Stato islamico dell'ISIS. Ecco, è lì che sperano di trovare le fanterie? Ma guardi, gli Stati arabi non forniranno fanterie perché le loro opinioni pubbliche interne sono estremamente divise e hanno paura sicuramente che scoppino moti, tumulti e così via. Chi fornisce un po' le fanterie sono sicuramente gli sciiti iracheni, e inquadrati in gran parte dalle unità speciali dell'esercito iraniano. Senta, ma chi fornisce le armi all'ISIS? Ma guardi che armi in giro ce ne sono a bizzeffe. E allora poi, chi gli dà i soldi? Abbiamo detto 1 milione al giorno vendendo il petrolio. Ma a chi lo vendono questo petrolio? Compriamo noi? No, tramite la Turchia va a imbarcarsi su qualche petroliera, Silano o così via. Quindi insomma lo compriamo poi in Occidente il petrolio? Non c'è dubbio. Essere mischiato col petrolio che arriva qua non è da escludere. D'altra parte tutto il nord dell'Iraq, quindi anche un pochettino la zona nord-est della Siria, dove esistono questi campi di petrolio, hanno sviluppato una forma di contrabbando di petrolio estremamente sofisticata, con degli interessi che ben difficilmente possono essere smontati. Ecco, ma un'ultima cosa, concretamente, secondo lei la battaglia di questa guerra all'ISIS è quella che si deve combattere anche in Europa? Ma in Europa a mio avviso non si combatterà, anche perché a differenza di Al-Qaeda, che aveva una visione abbastanza di attaccare il nemico esterno, cioè praticamente all'Occidente, l'ISIS è concentrato soprattutto col nemico interno, cerca di aumentare il controllo del territorio. In una maniera o nell'altra si dovrà uscire fuori. A parer mio l'unica maniera di venirne fuori, può darsi che lei rimarrà sorpreso, è il fatto di che le fanterie vengano fornite dalle forze governative di Assad. A parer mio ci sarà un rovesciamento di alleanze e la prima mossa di questo rovesciamento è stata la richiesta di Kerry, del segretario di Stato americano Kerry, all'Iran di partecipare più attivamente, cioè, di aiutarlo. Stati Uniti e Iran, Stati Uniti e Iran, questo è il rovesciamento dell'alleanza di cui parla? Esatto. Ah. E d'altra parte è l'unico che possa convincere Assad a cedere il potere all'esercito, e l'esercito deve prendere il potere in Siria perché è l'unica forza che possa evitare in Siria la creazione di una situazione di tipo libica, cioè di una guerra per bande. Grazie generale. 800 24 00 24 SMS 349 238 6666. Mix 24. questa metropolitana. È successo così che una R4, il vecchio modello Renault, carica di caffè, parcheggia proprio all'ingresso della stazione metropolitana di Cornelia e ne vengono fuori due signori, uno dallo sguardo che è tutto un programma e il suo autista, e con l'aroma di caffè addosso prendono questo vagone e improvvisamente, continuando a canticchiare loro due questa canzone, in un istante tutto diventa elegante e in bianco e nero. Ad ogni stazione entrano musicisti smoking e ballerine dalle gambe lunghe quanto sciabole sguainate, quelle che vanno all'assalto. I pendolari sono tutti ubriachi d'allegria e l'uomo, insomma, l'uomo dall'occhio che è tutto un programma, continuando a cantare, si avvicina a chi è alla guida del convoglio. E sai chi era? Ed è tutto fin troppo chiaro. Era Antonello Falqui. Ah, fantastico. Quanto gli piace fare. E allora andiamo con le bolle. Vai, vai. Doppia attacca. Questo era Fantozzi in volo. Siccome ancora la battaglia in Siria della coalizione degli americani, insomma di chi c'è, non c'è fanteria e c'è aviazione, mi sono divertito a cercare di capire quanto costa tutta questa roba. E devo dire, mi è venuto in soccorso, poi neanche a farlo apposta, Foreign Policy. Beh, insomma, è una cosa astronomica punto di vista del costo. Allora, da giugno a oggi il Pentagono ha rivelato che le operazioni varie fatte contro ISIS sono costate più di $1 miliardo. Ma la cosa interessante è il costo medio di un'incursione aerea. Diciamo che mediamente è $500,000. Per fare cosa? Che abbiamo visto che si fa poco. No, ma c'è un caso in particolare. Il raid di qualche giorno fa, di cui noi abbiamo dato conto, ha distrutto, allora, due carri armati, tre jeep blindate, un bulldozer e credo sia stato un furgone. Gli americani per fare questo raid hanno speso 4.5 milioni. Il materiale distrutto, siccome c'erano i tank, però valeva tra i 9 e i 13, queste sono le stime. Quindi diciamo è andata bene. Il problema è che qualche volta hanno distrutto un pick up da $50,000 spendendone $500,000 di bombe e aerei e così via. Quindi è una storia molto molto interessante. Anche si capisce perché i terroristi vincono. Perché costa. La guerra costa un sacco di soldi, non c'è niente da fare. E dunque c'è molta prudenza degli americani su questo. Segnalo solo che il generale Allen deve incontrare i turchi oggi. La cosa buffa è che se domani tutta questa baracca va a puttane, ci metteranno in croce per aver azzardato troppo. Ma se non succederà e ci rimetteremo in carreggiata, quelle stesse persone rideranno fino a pisciarsi sotto, perché sembreremo i più grandi fifoni che Dio ha messo al mondo. Margin Call. Questo è un grandissimo film, consiglio a tutti di vederlo, stava sul bouquet di Sky, o noleggiatelo, fate quello che volete, per dire che cosa? Le meraviglie della borsa. L'altro ieri Wall Street faceva segnare il suo giorno peggiore, perde 273 punti, ieri il giorno migliore dell'anno, guadagna 274.8 punti. Perché? Perché è tutto merito, o demerito, come la volete dire voi, della Federal Reserve, che ha pubblicato le sue minute, cioè i dialoghi scritti di che cosa hanno deciso o non deciso. In questo caso dovrebbero mantenere a lungo i tassi bassi e la borsa festeggia. Zaramini. Non solo le riforme, adesso anche le lenzuola, però ai noi non nel senso buono. Allora, il patto del Nazareno, a quanto pare, deve allargarsi ai diritti civili, e questo lo chiede Mara Carfagna, l'ex ministro delle pari opportunità, che è stata nominata responsabile del nuovo dipartimento di Forza Italia. Insomma, quello sui diritti, una cosa un po' piritolla, però pare sia molto importante, perché viene spiegato, c'è l'evoluzione di un partito che una volta magari era affidato alla sacralità dei principi e della vita, adesso invece è diventato sensibile, si dice sensibile, allora unioni omosessuali di qua, lotta all'omofobia di là, poi la doverosa lotta al femminicidio, gli aiuti ai centri antiviolenza, insomma tutta la fuffa umanitaria è innestata nel partito personale del CAV, che ormai è giunto al capolinea. Allora, la Carfagna trova la strada giusta perfino nella cosiddetta, qui urge il tuo intervento Mario, che sai benissimo manovrare le parole della lingua demo-plutocratica, sì, step child adoption, dovrebbe essere le adozioni del figlio del partner di una famiglia omosessuale. L'hai detto benissimo, sei fortissimo. L'ho detto benissimo. Sì, ma... Insomma, allora il discorso che bisogna essere sensibili, basta quindi con i riferimenti, ormai il Cavaliere non dirà di essere l'erede di Gasperi, come diceva una volta, ma di quello là con la barba vestito da donna, Conchita Wurst, si è scagliato ferocemente contro Alfano, insomma gliene ha dette quattro. E insomma, io sono fermo ai Kiss comunque. Comunque ragazzi, diciamolo, se perfino padre Georg si fa intervistare da chi? Siamo arrivati alla cosiddetta Vanity Church. Quale altro destino ci può essere per la destra italiana del Cavaliere se non quello di salutare tutti con questo grido? Sara, vediamo se recuperi con la quota rosa. Sì, anche perché io resto nell'ambito della sensibilità, come qualcosa da coltivare. Io comincio a odiarvi. E infatti sono preoccupata. No, non sono Melenza, perché ieri hanno pubblicato di nuovo, insomma, delle foto, non vi scandalizzate, ma di un elefante colpito da un dardo avvelenato dei bracconieri nel parco dello Tsavo in Kenya. E dico, ma chi se ne frega degli elefanti, direte voi. E dico, beh, insomma, perché il bracconaggio non solo alimenta un mercato illegale, che non è sicuramente sano, ma serve anche, in molti casi, a finanziare i gruppi terroristici, per quanto riguarda lo Tsavo, di Al-Shabaab. Quindi io non lo sottovaluterei troppo questo fenomeno. Perché le zanne c'hanno l'avorio. Sì, pensavo che fosse sottinteso. Non è mai sottinteso. Okay. E quindi io spero che la nostra coscienza ambientale possa migliorare velocemente, magari anche con l'aiuto della televisione. Domenica, per l'appunto, inizia alle falde del Kilimangiaro con una nuova conduttrice. E noi ce l'abbiamo qui. Camila Raznovic, perché hai accettato questo programma? Beh, perché la trovo una sfida meravigliosa, perché è un mio ritorno dopo, diciamo, un po' di tempo che io avevo preso per me stessa e per stare con le mie bambine, quindi è un bel ritorno, perché sono una viaggiatrice da quando sono nata, prima per volere dei miei genitori, perché all'inizio loro non si decidevano e poi erano un po' degli pettoni, quindi in India, poi in Inghilterra, poi in Germania, in comunità, cioè, erano gli anni 70, sì, no? Quindi hanno assaggiato il mondo insieme a te. Sì, assolutamente, e mi hanno iniziato a questa che poi non è più una passione, per quello non parlo di passione, è proprio una forma mentis, cioè un modo di vita. E tu cosa hai imparato, diciamo, dal viaggio? Ho imparato a essere curiosa, ho imparato ad ascoltare. Camila, ma invece qual è stato per te il programma più importante che hai fatto fino ad oggi? Guarda, non posso parlare di un programma più importante, perché comunque l'anno prossimo faccio 20 anni di televisione. Ho fatto programmi talmente diversi tra loro, cioè da parlare di sesso in diretta su MTV, a parlare di Cronaca Nera con Amore Criminale su Rai 3, o Tatami di costume attualità sempre su Rai 3. Sono toni talmente diversi che ognuno di loro mi ha insegnato qualcosa. Camila, senti, invece, sarai soddisfatta del tuo lavoro alle falde del Kilimangiaro se... Sarò contenta e soddisfatta del programma che ho messo in piedi. Gli ascolti arriveranno, sono certa, perché comunque sono convinta che il duro lavoro premia. Diciamo, per capire un po' meglio i tre ingredienti, i due ingredienti che ci dovranno essere al pomeriggio della domenica. Allora, il primo è contenuto, il secondo è emozione, il terzo è mondo, attualità. sociale nel mondo. Per chiudere, al di là della polemica che è nata vera o presunta tempo fa con Licia Colò, che cosa vorresti ereditare dal suo modo di parlare di natura, animali e viaggi? Presuppone che ci sia qualcosa che io voglia ereditare. Non lo so, c'ha tanta esperienza, magari c'è una cosa. I suoi ascolti dei primi anni. Mix 24. Canzoniere. Mentre t'aspettavo, immaginavo ogni particolare della giornata che avremmo passato insieme. Saremmo andati a rivedere i posti che più ci piacevano, l'ultima parte di Venezia verso la Marittima, dove è più facile baciarsi perché per le calli non passa mai nessuno e se qualcuno arriva lo senti da lontano. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Mario, ancora una bolla. Vai. E catali il cammello, veloce, alto e snello, riesce a catturare con le narcisole. Bello il catali cammello. Allora, il cammello serve a fare foto del deserto migliori, in particolare per Google, che ha usato il cammello per fare le foto a 360 gradi nel deserto dell'Arabia. Ci ha piazzato l'attrezzatura, si è fatto un giro sulla gobba e via, e quindi è andato avanti così. Pietrangelo, tu sei mai andato sul cammello? Certo. Sempre? Sempre. Anche il dromedario. Salamino. Fammi salire, voglio essere un ribelle, voglio anch'io una camicia nera. Tutti sulla camionetta. Allora, mentre Forza Italia diventa Forza Europa, Matteo, che è quello giusto, Matteo Salvini, quello buono, organizza a Milano per il prossimo 18 ottobre un appuntamento dove la Lega, quella sua, Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, Casa Pound e la destra di Storace vanno insieme per prendersi lo spazio a destra e con un programma semplicissimo: no euro, no Europa e niente più Mare Nostrum. Il cattiverio, insomma, è pronto con la camionetta. Allora, tutti sulla camionetta, la peggio gioventù. E l'unica assente in tutto questo era quella che poteva diventare la nuova Marine Le Pen d'Italia. Non c'è. Sapete chi? La Santanchè. No. Non c'è, perché se solo si allontana dal suo ufficio di San Lorenzo in Lucina, ecco, non prende la camionetta. Ha paura che le tolgano la stanza. Arriva, come si chiama quello lì che vogliono candidare, che è amico della Pascale, Cecchi Paone, lo mettono al suo posto e quindi la condanna definitiva della destra qual è? Quella di ritrovarsi non sulla camionetta, bensì a cantare. Nella seconda ora, racconteremo la storia del dramma del Vajont. Questa è la voce di una giornalista che ha combattuto prima del disastro, annunciando il disastro, Tina Merlin. Io provai una volta ad aiutare questa gente, ma quelli che comandavano avevano paura anche dei miei articoli. Scrissi una volta un articolo riportando le impressioni della gente di Erto a proposito del pericolo che esisteva nella zona. Mi denunciarono all'autorità giudiziaria perché turbavo l'ordine pubblico. Turbavo evidentemente l'ordine della Sade. Venni processata, ma i giudici mi assolsero con formula piena. Anzi, sentenziarono che quello che avevo scritto era la verità e che il pericolo quindi esisteva. Ma quelli che dovevano salvaguardare la vita di tanta gente non mossero un dito. Adesso la gente piange i suoi morti, però più di tutto odia chi li ha uccisi. Dopo il giornale radio, Marina Milone intervista Marco Paolini, che ha raccontato con uno spettacolo teatrale il dramma di queste terre. Gianfranco da Roma. Gianfranco, pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno. Per il canzoniere, no? Per il canzoniere. E allora, certo, ci dica. Allora, è anonimo veneziano di Giuseppe Berto. Giusto, Feltrinelli. Da dove ci chiama? Da Roma, ma che fa lei? Dov'è adesso? A Roma, io faccio il bibliotecario, oggi sono in ferie, per cui i libri sono comunque entrati nella mia giornata. Vabbè, quindi lei è un lettore assiduo. Anche, sì. Bibliotecario dove? Al Ministero dello Sviluppo Economico. Al Ministero dello Sviluppo Economico? Sì. Bene, grazie. Allora, grazie a voi. La canzone di oggi di Chiara Civello, per finire.